Quando scrivere diventa un atto di sopravvivenza, di resistenza, di denuncia della condizione femminile. Quando la voce non chiede permesso, rivendica ascolto. Domenico Del Bono analizzerà le pagine di una delle autrici italiane più amate di sempre, Alda Merini, con L'altra verità, diario di una diversa. L'altra verità di Alda Merini, un viaggio nella follia. In questo libro, Alda Merini racconta la sua esperienza di donna, internata in un manicomio negli anni 60. Il libro è un diario che narra 10 anni trascorsi nel manicomio Paolo Pini di Milano. La scrittrice descrive la sua vita quotidiana, fatta di elettroshock, torture e solitudine, ma anche di amori, passioni e speranza. Alda Merini è stata una poetessa e scrittrice italiana, considerata una delle più importanti voci liriche del Novecento italiano. È nata a Milano il 21 marzo 1931 e morta il 1 novembre del 2009. Inizia a scrivere poesie a 16 anni e viene scoperta da Angelo e Romano Giacinto Spagnoletti, che la includono nell'antologia Poesia Italiana Contemporanea. La sua prima raccolta poetica, La presenza di Orfeo, esce nel 1953. Negli anni successivi pubblica diverse opere, tra cui La Terra Santa nell'84, che vale il premio Librex Montale. Alda Merini ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio Viareggio per la poesia nel 96, nel 97 il premio Procida e nel 99 il premio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'altra verità affronta temi come la follia, la reclusione, la femminilità e la maternità. Alda Merini ci mostra come la società dell'epoca trattasse le donne considerate diverse e come la psichiatria fosse usata come strumento di controllo sociale, che priva le persone della loro libertà e dignità. La scrittura di Alda Merini è poetica, intensa e commovente. La sua prosa è un flusso di coscienza che ci trasporta dentro le mura del manicomio, facendosi sentire la sua angoscia e la sua disperazione. L'altra verità è una storia vera e toccante, un atto di accusa contro la psichiatria e la società dell'epoca, che trattava le donne considerate diverse, oggetti da rinchiudere e curare. È anche un importante contributo al femminismo, che insegna a non arrenderci mai e a lottare per la nostra libertà e la nostra dignità. La lettura di Alda Merini mi ha fatto riflettere sulla libertà e sulla condizione umana. La sua esperienza di ricovero in manicomio mi ha fatto capire che la pazzia non è solo una malattia, ma anche una forma di libertà, una libertà che non si può capire se non si è provata. Questo libro mi ha insegnato a non giudicare le persone con problemi di salute mentale, ma a cercare di capire la loro esperienza e a offrire sostegno. Una delle frasi più iconiche che mi ha colpito profondamente è: «La pazzia è una forma di libertà, una libertà che non si può capire se non si è provata». Questa frase ha un significato molto profondo. Spesso etichettiamo come pazze le persone che secondo noi sono sbagliate. In realtà non ci rendiamo conto che siano quelle ad essere uguali a noi e omologate alla società odierna.